facile il comporre. Non ho mai avuto anche grandi problemi, nel senso che per me comporre è una necessità, per cui scrivo. Devo dire che dopo aver scritto un pezzo, questo pezzo non mi interessa più, cioè io con tutta sincerità non ho neanche più voglia di ascoltarlo. Per me scrivere un brano è come buttare una navicella nello spazio, poi se ne va da sola, non si sa dove, cioè non vorrei più sentirlo, non vorrei più sentirne parlare. E la cosa più spiacevole per me è dover uscire a prendere gli applausi alla fine di un pezzo, una cosa proprio che mi inibisce estremamente. Tuttavia, pur non trovando difficoltà nel comporre, cioè non avendo il dramma di dire come scrivo, cosa scrivo, perché mi viene abbastanza spontaneo, devo dire che finora non sono soddisfatto al 100% di quello che ho fatto e penso di non essere ancora riuscito ad esprimermi nel modo migliore. Cioè, io sento che potrei fare cose migliori di quelle che ho fatto. Un senso di continua, ma non nevrotica, insoddisfazione che ha caratterizzato e continua ad improntare di sé l'itere umano e artistico del 57enne Enrico Corregge. Corregge è nato alla Spezia, ma vive, potremmo dire, ormai da sempre a Torino e la sua copiosa produzione è più nota all'estero, in Francia soprattutto, di quanto non lo sia nel nostro paese. Una produzione musicale caratterizzata da una inconfondibile cifra stilistica. Lo incontriamo in una serena mattina, quasi prima venire, per ripercorrere i momenti salienti del suo iter umano e artistico, e incominciando dalle ragioni che lo hanno portato a svolgere privatamente, quindi al di fuori delle normali istituzioni, il proprio apprendistato musicale. Il fatto è dovuto alla situazione post-bellica, infatti trovandomi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ancora fanciullo, sui 13 anni così, evidentemente non ho potuto subito dedicarmi a cose che mi sarebbero piaciute, ma abbiamo dovuto pensare a ricominciare a vivere, avendo avuto la casa distrutta, tutto distrutto, quindi dovendo ricominciare la vita da capo, insomma. E quindi a tutto si poteva pensare fuorché alla musica, non avrei avuto neanche un pianoforte in casa, insomma. Pertanto io posso dire di aver cominciato a studiare musica seriamente, professionalmente, sui 18-19 anni, alla fine del liceo, ho fatto il liceo classico, andando a lezione da un maestro un po' oscuro a Torino, Roberto Goitre, che si è dedicato specialmente alla vocalità corale, a insegnare, diciamo, canto ai bambini delle scuole medie, formando delle corali. Avendo cominciato molto tardi, ho trovato anche delle difficoltà, chiaramente, perché si sa benissimo che studiare uno strumento quando si è piccoli è diverso che cominciare uno strumento in età matura. E difatti, non poco ho sofferto per arrivare, ad esempio, a un diploma di pianoforte. E devo dire che al diploma di composizione ci sono arrivato a 32 anni, avendo anche fatto l'università. Devo dire che la musica ce l'avevo già nel sangue da piccolo, infatti durante la guerra io ero sfollato a Saluzzo e vivevo da solo e passavo la mia giornata a suonarmi gli esercizi del Beyer su un vecchio pianoforte che avevamo di famiglia. Dopo Goitro ho avuto un insegnante più oscuro ancora a Torino, un certo Attila Poggi, che però aveva una cultura enorme e posso dire che oltre che maestro di musica è stato maestro di vita, in quanto dopo le ore di composizione passavamo ore a parlare di filosofia, di pittura, di letteratura. È stato lui a farmi conoscere Proust, a farmi conoscere Thomas Mann, a farmi conoscere tutta la pittura impressionista, espressionista, eccetera. Quindi devo dire che sono stato molto fortunato a incontrare una persona del genere. Per quanto riguarda i miei studi privati, invece, credo che siano dipesi dal fatto che non avendo possibilità di essere consigliato da musicisti in famiglia o di amici musicisti, eccetera, trovandomi totalmente allo sbando, non mi è neanche venuta in mente di andare in conservatorio, cioè ritenevo il conservatorio un luogo per eletti, per gente già arrivata a dei traguardi incredibili, cioè per me era un po' il Parnaso, per cui una volta, ad esempio, passando davanti al conservatorio di Torino, ho fatto l'elemosina non disinteressatamente a un poveretto che la chiedeva, con la speranza di poter almeno riuscire a dare un esame di musica in conservatorio, e non avrei mai immaginato di arrivare un giorno a insegnare composizione, insomma. Una attività didattica che lo impegnerà per circa un decennio nel Conservatorio di Musica Torinese, ma sul rapporto con le istituzioni musicali arriveremo tra poco. Soffermiamoci invece sulle prime esperienze compositive che avvengono negli anni 50, anche se Correggia fa iniziare il suo catalogo dal 68, avendo ripudiato tutte le esperienze precedenti. Ma gli anni 50 e i primi anni 60 hanno rappresentato un momento particolarmente importante nel pensiero musicale contemporaneo, e ci riferiamo soprattutto a quanto avveniva in quegli anni a Darmstadt. Darmstadt per me è stato evidentemente un traguardo mancato, in quanto da giovane non ne sapevo l'esistenza. Cioè, Torino è stata una città che ha vissuto la guerra in modo molto negativo, bombardamenti, fame, miseria, insomma è stata una città molto colpita, per cui si è trovata alla fine della guerra abbastanza emarginata anche da un punto di vista culturale, si è dovuto ricominciare e più che altro cominciare a conoscere, perché anche i mezzi di informazione erano molto minori di quelli di oggi. Se penso che io ad esempio ho avuto il telefono quando avevo 18 anni, la televisione non c'era, insomma, e è stata una fatica immane, per cui quando io ho saputo dell'esistenza di Darmstadt forse ero già in un'età troppo avanzata perché ne sentissi la necessità di andare a studiare là. E è un mio rammarico, certo, perché se io invece di andare a Salisburgo a studiare pianoforte o direzione d'orchestra, tra l'altro con meravigliosi maestri tipo Carlo Zecchi che mi ha dato moltissimo, niente da dire, però evidentemente avrei avuto una maggior utilità a Darmstadt, anche forse per inserirmi in un ambiente dal quale mi sono sempre sentito escluso. Io mi sono sempre sentito un emarginato musicalmente parlando in Italia. Vabbè che si dice Nemo profeta in patria, però forse frequentando Darmstadt avrei potuto conoscere i miei colleghi, diciamo di una generazione avanti, i Nono, i Berio, i Maderna, queste persone che evidentemente avrebbero potuto indirizzarmi o aiutarmi maggiormente, mentre invece ho dovuto farmi un po' tutto da solo. Dal momento in cui ho cominciato a venire a conoscenza di ciò che succedeva fuori Italia, evidentemente sono rimasto abbastanza sconvolto dalla scuola di Vienna, ma più che altro dalla scuola orientale di Ligeti e Penderecki. E evidentemente i primi passi per togliermi dalla tonalità, e questo me l'ha detto anche il mio maestro Goitre, era quello di un certo artigianato dodecafonico, seriale, e devo dire che mi è stato utilissimo. Infatti ho scritto anche proprio così come compiti scolastici molti brani seriali e dodecafonici che sono approdati in questi 5 minuti di queste 5 liriche su testi di postumi di Bertolt Brecht, dove per voce, clarinetto e pianoforte, dove evidentemente si sente la diciamo così l'atmosfera e questa influenza espressionista. E diciamo che io mi sono sentito subito attirato da questa atmosfera espressionista, specialmente anche dalla pittura espressionista. Si dice che Van Gogh sia stato, si può dire, il precursore dell'espressionismo, poi Munch, Ensor, e forse io ho sempre avuto una tendenza mitteleuropea, stranamente. Forse ho avuto qualche avo che veniva da quelle parti, ma ho sempre sentito il fascino dell'Austria, della Germania. E quando viaggiavo e arrivavo in questi paesi mi sentivo un po' a casa mia, per cui tutta questa atmosfera un po' cupa, disperata, espressionista sul mio animo abbastanza giovane ha avuto una presa molto forte, di cui mi sono liberato solo in questi ultimi anni. Thank you. erano le cinque liriche su poesie postume di Bertolt Brecht per voce, clarinetto e pianoforte che costituiscono Der Wanderer, un lavoro che Enrico Correggia scrive nel 68 e di cui abbiamo ascoltato i relativi testi poetici. Siamo nella seconda metà degli anni 60, anni particolarmente significativi e importanti per quanto accadeva nella vita sociale e politica. Ma come reagiva Correggia alle tematiche proprie di quegli anni? Negli anni 60 io ero particolarmente impegnato politicamente e ho scritto musica dove evidentemente questo impegno politico era abbastanza evidente. E questo ha continuato anche dopo, negli anni 70, ad esempio con un brano che ho scritto per Varsavia, From the Dark Round to Bright Light, dove ho messo testi di Raffaele Alberti e anche, ad esempio, proprio una citazione evidente dell'inno delle Brigate Internazionali, eccetera. E anche in pezzi posteriori, come nell'Epigrafe, scritto una commande del Teatro Regio di Torino per un concerto sulla Resistenza, su testo di Calamandrei. In seguito, invece, sono andato verso una maggiore astrazione, verso altri elementi che mi attiravano altrettanto. Cioè io ho sempre vissuto un po' due nature, una natura che mi spingeva verso una socialità eccessiva, i problemi sociali, a una partecipazione attiva a una vita, diciamo così, politica, eccetera, e nell'altro senso anche un desiderio enorme di solitudine, di individualismo, di spazi completamente vuoti, senza questa compagnia del prossimo che volerò volare in certi momenti di cui si sente il bisogno. E quindi queste due nature sono sempre state un po' l'una contro l'altra. Devo dire che a un certo punto la seconda, la natura, quella che cercava la solitudine, il vuoto, ha sopravanzato l'altra. Per cui l'astrazione è sempre stata maggiore, un'attrazione verso lo spazio. A me piace molto la fantascienza e quindi, tanto più che poi evidentemente con gli anni viene anche una maggior stanchezza di coinvolgimento politico, di coinvolgimento sociale, eccetera, per cui sono andato verso una direzione totalmente astratta, più, insomma, più personale, più individuale. Beh, devo dire che dopo queste prime esperienze seriali dodecafoniche ho ripudiato quasi subito lo strutturalismo e mi sono lasciato attrarre di più, come dicevo prima, dalla scuola orientale, anche per certi aspetti da un punto grafico per cui ho adoperato anche per esempio in Galaxy per riuscire a far stare un'orchestra di 60 elementi con parti reali su un foglio di carta unica. Ho dovuto adoperare degli accorgimenti grafici, che se no, se avessi scritto tutte le notine come si doveva, avrei dovuto prendere un foglio lungo un metro. Quindi è stata anche un'esigenza grafica il ricorrere a certi espedienti di Penderecki o di Ligeti, eccetera. L'aleatorietà direi che non mi ha mai affascinato. Non amo la musica jazz, ad esempio, stranamente. È una cosa che mi disturba proprio a livello di sistema nervoso. E quindi anche all'aleatorietà credo poco. Cioè, il pezzo improvvisato non è più musica mia. Benissimo, se l'esecutore si sente di improvvisare, faccia. Ma sono fatti suoi. Se io scrivo un pezzo di musica, mi piace scriverlo completamente, insomma, fino in fondo. Passando dalla serialità a un altro modo di scrivere, più vicino, diciamo, alla scuola orientale, arriviamo a brani come La Tierra Yerma, su testo di Salinas, che ho scritto per una serata col coro di morti di Petrassi, che noi avevamo chiamato a Torino e lui gentilmente aveva accettato di venire a dirigere, e un altro brano tipo La morte per acqua, su testo di Eliot. Arrivo alla mia opera balletto, Ail, su testo di Italo Calvino. Si tratta di una fiaba fantascientifica, molto bella, molto poetica. Io non ho, riscritto il testo, ma ho preso veramente il testo di Calvino qual era, evidentemente accorciandolo, tagliando certe parti e lasciandone certe altre. Ecco, qui è il mio primo esperimento veramente di musica, diciamo, al di fuori dallo strutturalismo, completamente al di fuori dallo strutturalismo, con una struttura evidentemente c'è, perché per me la forma è importantissima, la metto, la forma è in primo piano per ogni mia composizione, però poi ho lasciato libero corso alla mia fantasia, ai miei pensieri, alla voglia di ciò che sentivo di scrivere in quel momento e di ciò che il testo bellissimo di Calvino mi proponeva, insomma. Lanciai la palla dai al di là di una fenditura che si apriva nel suolo, ma il tiro riuscì inesplicabilmente più corto di quel che era nelle mie intenzioni. La palla cadde nel crepaccio. Ecco, era diventata un tratto pesantissima. No, era stata la voragine a spalancarsi enormemente e adesso il era lontana, lontana, oltre una distesa liquida e ondosa che s'era aperta tra noi. Mi spumeggiava contro la riva di rocce e io mi protendevo da questa riva gridando Ain, Ain! E la mia voce, il suono, proprio il suono della mia voce si propagava forte come mai l'avevo immaginato e le onde rumoreggiavano più forte della mia voce. Thank you. Era un estratto da Ail, opera balletto, che Correggia scrive nel 73 su testi di Italo Calvino. E la presenza di un testo, presenza che ricorre molto spesso nelle opere di Correggia, ci porta ad affrontare il complesso rapporto musica-poesia o più in generale parola-suono. Il rapporto tra musica e parola la vedo un po' in senso tradizionale. Cioè il fatto che nella musica contemporanea, ad esempio, si sia per certi versi rifiutato il madrigalismo, io lo trovo abbastanza assurdo. Cioè se a un certo punto anche il testo è adoperato non per il suo contenuto, ma così anche spezzato, quasi adoperato in modo strumentale, non vedo perché, se a un certo punto il testo parla della notte, io non debba essere influenzato da questa atmosfera notturna e fare una cosa totalmente opposta. Questo lo trovo abbastanza assurdo, insomma. E quindi per me il testo è una fonte di ispirazione enorme quando scrivo musica. Se io scelgo un testo è perché mi piace, perché mi emoziona, perché mi incentiva a scrivere. Per fare un esempio, l'ultimo pezzo, cioè il primo pezzo che dovrò scrivere per il Festival di Alicante, volevo scriverlo per voce, violoncello solisti, ensemble, e non sapevo che testo prendere, insomma. Stavo per andarmi a rileggere Hölderlin, che ho saccheggiato abbastanza, o che so io, altri poeti, quando sulla stampa di Torino è uscita una serie di poesie molto attuali sull'inquinamento, sulla guerra del Golfo e su questi, ad esempio, uccelli che vengono condannati a morte dall'inquinamento stesso del mare. Ho visto che questa poesia, tra l'altro, era firmata da un mio caro amico, gli ho telefonato subito e ho detto: quella poesia tua mi piacerebbe immensamente, e lui era felicissimo, e quindi è stato proprio un momento di reciproca comprensione. Quel testo per me avrà un'importanza enorme, tanto più che c'è sempre il mare come sfondo, che è un elemento che è dentro di me, che lo sento in continuazione, per cui evidentemente ha un riferimento molto immediato con la musica che scriverò, il testo. Mi interessa che la musica possa aiutare ad esprimere il contenuto del testo in quel momento, anche se il testo non si capisce. Quindi è l'ispirazione che il testo mi dà che deve trasfondersi nella musica che io scrivo in quel momento. Se devo pensare a un recupero del passato, questo è uno dei punti in cui per me è importante il recupero, cioè far sì che il testo e la musica si compenetrino a vicenda e non siano proprio solo, il testo non sia proprio solo la scusa per scrivere un pezzo di musica a prescindere dal suo contenuto, perché allora a quel punto basta prendere delle lettere dell'alfabeto o delle sillabe qualsiasi, non è più il caso di prendere un testo, ecco. Tutta l'attività compositiva di Correggia è segnata da una spinta propulsiva che le impedisce di avere ritorni o ripensamenti volti a più o meno semplici recuperi di stagioni passate, anche se vi sono alcuni lavori che hanno un ruolo di sintesi, a volte dalle caratteristiche contrastanti, di proprie esperienze compositive, come ad esempio il recente quartetto numero 1 del 1988 o, appunto in senso contrario, Galaxy 2 per orchestra del 1990. Ma soffermiamoci sugli anni 80 per una valutazione sul pensiero compositivo di Correggia in quegli anni. Gli anni 80, devo dire che sono stati, diciamo, il punto di arrivo della mia attività compositiva e mi hanno influenzato due episodi apparentemente abbastanza senza senso. Uno è stato un concerto dei Pink Floyd, musica dei Pink Floyd buttati in sala dalla Carson che ballava. E io non mi ero mai interessato di musica rock o musica leggera, e devo dire che quel concerto ha avuto delle sorprese enormi. E un secondo episodio è stato in Brasile, eravamo andati a fare dei concerti in Brasile, poi eravamo andati a Manaus per visitare il posto, vedere il Rio delle Amazzoni, eccetera. E a un certo punto ho sentito dalla giungla arrivare un suono strano, e uscito dall'hotel, che era proprio in mezzo alla giungla, mi sono accorto che dovevano esserci, ancora oggi ho da scoprire se erano migliaia di insetti o migliaia di uccelli, che facevano un cluster meraviglioso, ma con una varietà di timbri, di melodie, e sono rimasto veramente stupefatto. Sarei rimasto lì tutto il giorno ad ascoltare, solo che ho scoperto una cosa curiosissima, che queste cose che cantavano, che non so cosa fossero, perché erano nascosti tra gli alberi della giungla, cantavano per mezz'ora al mattino e mezz'ora al tramonto. E stranamente il canto del tramonto era molto più allegro del canto del mattino. Quasi. Il canto del mattino sembrava in tonalità minore, mentre il canto della sera era in maggiore, una terza maggiore, chiarissima. E tornato in Italia ho scritto un brano che mi era stato commissionato da Radio France, Già le olia di notte, che avrebbe dovuto avere un altro titolo, le antiche arpe notturne del vento, ma che il critico Harry Albright, a cui era dedicato il brano, ha trovato troppo retorico e ha fatto che dare lui il titolo Già le olia di notte, riassumendo la frase precedente. E questo brano, devo dire, è stato scritto con in mente questa fascia meravigliosa che avevo sentito nella giungla brasiliana, e da quel momento il mio modo di scrivere è cambiato. Quindi è cambiato per un fatto naturale, direi, proprio di biecamente naturale, non senza diciamo circonvoluzioni cerebrali o cose del genere. Cioè io sono molto sensibile agli eventi naturali, alla voce del mare, alla voce delle cose che mi circondano, e devo dire che quell'episodio per me è stato importantissimo, perché tutta la produzione da allora è stata influenzata da questo cluster che ho nella testa ancora oggi e che ho ritenuto meraviglioso e bellissimo, e ho anche registrato fortunatamente, quindi ogni tanto me lo posso riascoltare. Evidentemente questa esperienza legata ad altre successive mi hanno portato a un modo di scrivere del tutto nuovo per me. Oggi forse intraprenderò una nuova strada, perché penso che il brano che ho detto prima per il Festival di Alicante sia l'ultimo brano d'ensemble che io desidero scrivere. Poi voglio dedicarmi a un grande affresco, a un requiem su testi di Dylan Thomas, non sul testo tradizionale del requiem. Lo intitolerò Requiem, Musik für das Ende der Tage, musica per la fine dei giorni, su 12 poesie di Dylan Thomas, e vorrei poi anche scrivere un'opera, Solaris, su testo di Lem e sul quale Tarkovsky ha fatto il famoso film sovietico di fantascienza. Quindi direi di essere arrivato alla fine di un ciclo della mia esistenza compositiva, e questi 10 anni dall'80 al 90 sono stati importantissimi. Dopo questa esperienza che ho detto prima, ho cercato di riassumere tutte le esperienze precedenti per arrivare ai brani degli ultimi anni, tra cui c'è il quartetto numero 1, che forse è il pezzo più cerebrale che ho scritto. Qui si tratta di quattro archi che dialogano quasi in modo folle, incompresi, in solitudine totale, per cui il brano è abbastanza di difficile percezione. Questi quattro strumenti dichiarano la propria solitudine, incontrandosi in alcuni momenti dove sembra che possa esserci un aggancio, un rapporto, una speranza di comprensione, per poi riallontanarsi, fino alla sezione aurea del brano. Io quasi tutti i miei brani, sia le sezioni, il brano completo che le sottosezioni, sono basate sulla sezione aurea. Penso che sia esattamente equilibrato l'aumento della tensione fino alla sezione aurea e poi uno scaricamento di tensione fino alla fine. E fino, dicevo appunto, alla sezione aurea, dove il primo violino esprime quasi disperatamente questo senso di solitudine, e tutto si spegne in un dialogo tra sordi, insomma. Quindi, come dico, è un pezzo che può essere abbastanza difficile percettivamente. Così si conclude il quartetto per archi numero 1, un lavoro che Correggio porta a termine nel 1988, 4 anni dopo aver abbandonato l'attività didattica. Ma come ha vissuto Correggio il rapporto con le istituzioni? Io sono entrato a insegnare in conservatorio in modo abbastanza casuale, diciamo, e curioso. Avendo la laurea in legge, io potevo insegnare tutte le lingue possibili e immaginabili. Era una strana legge che c'era una volta. Per cui io sono entrato a insegnare nella scuola media annessa al conservatorio lingua e letteratura francese. E poi sono passato a solfeggio, quindi a lettura di partitura, e per arrivare infine ad armonia e contrappunto e poi anche composizione. Sono stato per un anno o due utilizzato. Beh, devo dire che l'insegnamento mi ha causato molte gioie e sono partito con un grande entusiasmo, però l'ambiente del conservatorio finisce, secondo me, per spegnere tragicamente gli entusiasmi che uno ha. Ad esempio, a me sarebbe piaciuto formare dei gruppi con gli strumentisti o insegnare composizione con evidentemente con i coordinamenti con le singole classi strumentali, anche per far sentire a un allievo che studia composizione come suona un clarinetto e un flauto insieme. Cioè, io non posso teoricamente, una volta un allievo mi ha scritto il fagotto all'unisono con il flauto. A questo punto è un abbinamento talmente strano che o lo senti o se no, vabbè, lo immagini, ma le sorprese possono essere molte. Quindi non avevo un'aula dove far sentire musica, insomma diventava tutto un insegnamento astratto. E devo dire che ho avuto degli anni ruggenti con degli allievi splendidi, che anche oggi sono conosciuti. Ad esempio, io ho portato al 7° anno Guido Guida, che adesso fa il direttore d'orchestra ed assistente di Sinopoli, e poi dei compositori sulla breccia oggi come Possio, come Bruno Cerchio, oltre a Maria Teresa Mormino, che allora era una pianista veramente brava, eccetera. E abbiamo avuto degli anni veramente belli, dove si passava tutta la mattina a discutere sulla risposta di una fuga, a litigare, e poi si scrivevano pezzi che si eseguivano, si era formato anche un gruppo strumentale, eccetera. Però poco a poco questo tutto si è spento. Poi gli ultimi anni avevo degli allievi che erano molto indifferenti a tutto, i miei entusiasmi erano veramente scaduti totalmente, per cui ho pensato che tanto valeva che smettessi. Cioè, io non ritengo che si possa insegnare se non se ne ha un grande desiderio. Mi è sembrato di non aver più nulla da insegnare agli altri e ho ritenuto più onesto smettere che continuare. Ma con la fine dell'attività didattica si intensifica quella di organizzatore ed animatore culturale, un'attività che lo vede tuttora impegnato in prima persona e che concretizza un senso dinamico proprio della personalità di Correggio e una insaziabile volontà di fare. Forse è una voglia di fare eccessiva per certi aspetti, perché è una naturale inquietudine del sagittario proprio, di fare sempre l'esploratore. Infatti, se non avessi fatto il musicista mi sarebbe piaciuto fare l'archeologo, che so io, l'astronomo, l'astronauta, qualcosa del genere. E effettivamente io ho fondato la Corale Universitaria Torino, poi ho fondato la Camerata Strumentale Alfredo Casella, che esiste tuttora, fa una stagione di concerti. Poi ho fondato Antidogma Musica e in seguito, insieme a degli altri musicisti e giovani, ho fondato ancora l'Icons, che oggi fa dei corsi, è un concorso di composizione a Torino. E cos'è che mi spinge sempre a inventare qualcosa di nuovo? Il fatto che dopo un certo numero di anni che svolgo un'attività, comincio a sentirne il peso, stranamente. Ho bisogno di qualcosa di nuovo, ho bisogno di cambiare, soffro di claustrofobia. E questo mi ha portato a fondare 4 associazioni diverse a Torino, tuttora esistenti e tuttora funzionanti. Ovvio che quella a cui in questo momento tengo di più è Antidogma, in quanto oltre a organizzare un festival annuale a Torino, molto bello, di una decina di giorni, devo dire molto bello, molto interessante, molto esaltante. Ad esempio, l'altro anno abbiamo fatto, è stata un'idea di Dora Filipponi, di fare Himmen di Stockhausen al Lingotto, e coinvolgendo 10 città italiane che hanno mandato sculture di giovani ispirate a Himmen di Stockhausen, sono state messe nella sala presse con illuminazioni particolari, per cui la gente poteva ascoltare queste 2 ore di musica passeggiando nella sala con un'amplificazione che coinvolgeva questi 25.000 metri quadri e guardandosi queste strutture illuminate, e avevamo 1.500 persone. Cioè, quindi organizzare un concerto di musica contemporanea con le nostre forze e avere 1.500 persone è stata una cosa commovente per noi, esaltante. Ma dico, oltre il festival abbiamo anche l'ensemble che, devo dire, dà delle grandissime soddisfazioni. Abbiamo fatto più di 100 concerti all'estero, girando il mondo intero. Quest'anno, ad esempio, parteciperemo al primo festival di musica contemporanea di Bucarest. Hanno voglia adesso di scoprire, di fare, quindi organizzano il primo festival quest'anno. Faremo 2 concerti al Festival di Alicante, che è uno dei più importanti. Andremo al Centre Pompidou di Parigi. L'altro anno abbiamo fatto 5 concerti a Ginevra per l'Italien, con 5 comande fatte dalla città di Ginevra a 5 compositori italiani. Insomma, è un'attività bellissima, solo che è talmente stancante che non... io devo scrivere 2 note tra una telefonata e l'altra. Certe volte mi stupisco di riuscire ancora a fare queste cose, insomma. Il nostro incontro con Enrico Correggio avvolge al termine, e per concludere ascolteremo un estratto dal finale di Galaxis 2, lavoro per orchestra scritto nel 1990, un lavoro in cui l'orchestra viene trattata quasi ad affresco per grandi flash, ma sempre con grande chiarezza formale.